Andare alla Zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta. Questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta. Io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto, allora ciao. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. We are liars, we are thieves, scheming dildos, dressed like cheap, dealing tragedy and false belief. Sempre stessi cose, sempre stessi argomenti, e rinnovo tu poco. E mo son che puttana, e mo son che trans. Ma fammi capire, che è tutta la cultura che tiene? Che è la cultura tua? E rinnovo tu poco, ti dico per la seconda volta. Mi credi? Tu stai esaurito, bello mio. Cambia trasmissione. Migliora nella vita, migliora. Avete cagato papà la minchia questa trasmissione, solo stronzate contate, Cruciale, non ti posso dire di non fare l'infame perché lo sei, infamone carabiniere sbirro. Però ho sotto tua connesce. Uzzototò è malato, è anziano, deve uscire, Cruciani, pezzo di sbirro infame. Ragazzi, questo non scherzava, eh? Pezzo di sbirro infame. No, ti assicuro che era vera la telefonata. Adesso vabbè, certo è vera. Ma no, insomma, ma l'ha trasformata. Oh, vabbè. L'ha trasformata un po' Pietro, ma in realtà era tutta vera la telefonata. Cioè era Pietro seria. Pietro la corte. Hanno aperto una procedura, il Tribunale Penale Internazionale contro il regista della Zanzara. Hanno aperto una procedura contro lui. Naturalmente. Esatto. Ragazzi, Rina Uberalles, nel senso che abbiamo ricevuto messaggi, mail, ovviamente sì, tutti contro Parenzo, devo dire la verità, tutti contro Parenzo. Non mi sembra una notizia questa, perché sì, la gente che chiama e telefona non ha nulla da fare e tra l'altro sono persone che rallentano la crescita del PIL e tu esaltandole fai la macelleria delle imprese, perché in realtà uno serio che lavora sì, non telefonerebbe mai a un programma come questo in cui si incita la gente a fare gangbang, a tradire la moglie, a fare pipì nel lavandino, eccetera, e altre eccetera, amenità. Quindi chi chiama è evidente che appartiene a quella minoranza assoluta di disoccupati e quindi ovviamente occupano il tempo telefonando. Ma non è vero, qui ci dispiace. Non è vero. Malati mentali, che sono il 99% di quelli che chiamano. Non è vero. Gente assolutamente disturbata, poi... quindi è normale che se la prendano con il capo della maggioranza silenziosa che è qui rappresentato nella sua anche mediocrità, se vuoi, però è qui. Sì, sono parte della maggioranza silenziosa, ma vorrei far notare a David la contraddizione pazzesca in cui sta piombando. Qualche anno fa su Pripke ci raccontava che si augurava la sua morte, che non bisognava avere nessuna pietà perché era stato uno spietato criminale. E adesso Perrina ha cambiato idea. Sono contento che tu abbia cambiato idea, David, ma rimangiati quello che avevi detto su Pripke. Ciao. Eh beh, amico mio, non è sbagliata come cosa. Ha ragione, questo esponente del tuo movimento. In realtà voglio spiegare a questo amico della maggioranza silenziosa che le cose non stanno così, perché il signor Erik Pripke non ha fatto un solo giorno di carcere. Pripke è stato prima Non ha fatto carcere. Era lì messo in una villa a scorrazzare in giro, onorato da tutti questi pseudo paccottiglia di fascisti che andavano cazzate a baciargli la pantofola. Nessuno vuole che Rina torni a Corleone, nessuno vuole che Rina torni libero. Vada in una struttura adeguata a scontare la pena e a finire i suoi giorni. Purtroppo all'epoca Pripke non era in pericolo di vita. Purtroppo, virgola, no, all'epoca. Per Pripke tu non hai avuto pietà. Certo, per Rina hai pietà. Marino, per Rina hai pietà. Il signore Erik Ma chi se ne frega? Ha fatto un solo giorno di carcere. Ma quelle sono cazzi della giustizia. Ma non mi interessa a me se ha fatto un giorno o un giorno. Ma manco i domiciliari. Tu non hai in una villa con tutti gli onori, con tutte le cose. E anche onorato. Venivano, andavano a trovarlo dei fascisti. Non hai avuto pietà per Prip, che invece ce l'hai adesso su Rina. Intanto non ho pietà. Sei contro il 99% del paese che vuole Rina. Hai fatto i sondaggi? Ma che cosa sei? Ma Naimer, hai fatto anche i sondaggi? Questa mattina l'area che tira, la trasmissione che conduci in maniera assolutamente degna. Ti ringrazio. Spero non sia ironico. Assolutamente no. Lo sai, è l'avvocato, l'avvocato del signorina che si chiama Cianferoni ha detto che uno stato civile non ha bisogno di far marcire un povero vecchio. Sì, questo. E tu sei d'accordo, lo devi dire. Inutile. Smettila di indossare i panni della terzietà. Già ieri sei stato chiaro. Secondo te, uno stato civile non ha bisogno di far marcire il carcere. All'apertura della trasmissione di oggi, che tu hai citato, l'ho detto. La differenza che c'è tra uno Stato e la barbarie è che lo Stato, a differenza dei mafiosi, non uccide. Lo Stato non uccide. I mafiosi uccidono, lo Stato non uccide. Ma che c'entra uccidere? Qui si dice una cosa molto semplice. Lo signorina, Stato non è un criminale. Non è un povero vecchio, lo come Stato dice l'avvocato. Ho 86 anni e credo sia gravemente malato. Ma non me ne frega nulla. Ma possiamo dire è... che ce ne sbattiamo i coglioni? No. Possiamo dire che deve essere assistito, per carità. Ma non è lo che... Stato non uccide, capito? Cianferoni, lo Stato l'avvocato non uccide. Sentiamo Cianferoni, dai. Alla vista delle vittime voglio dare il mio tributo deferente di silenzio, perché le vittime non le riporta nessuna galera. Quindi uno Stato civile non ha bisogno di far marcire in carcere un povero anziano. Non ha bisogno di far marcire un povero anziano. Bah. Poi ha detto che Rina attualmente non è in carcere, ma un'altra struttura gli allungherebbe la vita. Un'altra struttura gli allungherebbe la vita. Beh, cosa cioè, ma ragazzi, ma dai. No, ma scusa, su. Sennò poi devi decidere che vogliamo ci deve essere. Vogliamo mandarlo in un hotel a 5 stelle? No, eccolo là. Lo vogliamo eccolo mandare, là. Lo vogliamo eccolo mandare noi con Cruciani, eccolo lo vogliamo là. Ma immagina, vogliamo circondare eccolo, di medici eccolo, in modo da rendere la sua dipartita la più leggera possibile. Non c'è nessuna spa, non comincia, non dai. C'è la spa. Non è che Rina va a farsi i massaggi in un famosissimo hotel spa 5 stelle di cui è non dirò il nome in Toscana. Uno spietato assassino, lo abbiamo tenuto giustamente in galera. Era al 41 ma nessuno bis. Lo vuole a una spa. Sta male, benissimo, muoia, ma nessuno tranquillo. Lo vuole a Rapolano Terme o in altre località. Non è di quello allora che si vuole. Allora che vogliono? O a Monte Grotto, che vogliono allora? O a che vogliono? Secca. Che sia scarcerato. Vogliono no, che sia scarcerato. Sia trasferito in no, una struttura che sia scarcerato. Che possa passare gli ultimi giorni, le ultime settimane cosa? Della sua vita in assistito un posto dai che non parenti, sia assistito magari ma dai parenti. Non so, dai parenti, non credo. Non lo vogliono togliere dal 41 bis in sostanza. Lo vogliono togliere dal 41 bis. Questo non c'è dubbio. Appunto, lo vogliono togliere dal carcere duro. Bisogna verificare se quella condizione di carcere duro è compatibile col suo stato ragazzi, di salute. Prendete il telefono. Chiamate e assaltate quest'uomo che vuole far passare gli ultimi giorni di Rina insieme alla famiglia, circondato dai suoi cari, assistito. No. Non è certo in un albergo a 5 stelle, sta terminando i suoi giorni, poi il buon Dio sa quando e come per ognuno di noi, è curato dai medici, su questo nulla da dire. Grazie. Niente da dire che sono certo che una struttura più adeguata gli allungherebbe di un po' la vita. Poi non si è capito se può parlare, non può parlare, può fare dei gesti, non può fare dei gesti. Questo ancora non si è capito. Magari lo chiamiamo dopo l'avvocato. Certo, eh? Verifichiamo. Verifichiamo che è importante. Se perché Gratteri, per esempio, il mitologico Gratteri, per carità, non è che sia la divinità assoluta, non è che bisogna ovviamente credere a tutto quello che dice, però è sicuramente molto è un magistrato molto importante. Io lo vorrei ministro della giustizia tutta la vita. Dire, il parere di Gratteri per me, anche se è lontano da quel che penso io, però ha più peso di quello di Mauro da Mantova. Ti posso dire questo? Signor Mauro. Cioè, io non voglio sentire oggi Donato da Varese cosa perché? Pensa perché voglio no? sentire Gratteri anche se la... perché il parere di Donato da Varese vale quanto la carta igienica che io utilizzo da quando sono nato. Questo è morto, che è morto, stai zitto che non sei nessuno. Ma, d'accordo, rimane il mio giudizio. È più utile la carta igienica di Donato da Varese. La carta igienica è fondamentale, voglio dire. Più utile la carta igienica? No, più utile, è fondamentale. No, più utile, è fondamentale. Lui Rina non serve a niente. Comanda lui. Ancora, puoi inviare messaggi. Ora, o è disinformato, o sparacazzate? Chiariamo no, questa cosa, magari, la chiamiamo, non, magari no. la chiamiamo, la chiariamo più avanti questa cosa qua, sì, ma bisogna chiarirla. Può mandare messaggi il signor Rina, può fare dei cenni, può comandare qualche cosa, può istruire qualche picciotto, ancora se ancora esistono questi picciotti, può fare qualcosa di concreto per la sua, per il suo territorio, per la sua, no, per la sua banda, per chi ancora resta lì o no? Sì o no? Ce lo dica l'avvocato, dopo magari ce lo dice. Per me, da quello che ho visto, che ho letto, Rina ancora è attivo, ancora manda all'esterno messaggi. Se noi pensiamo che due giovani mafiosi dicono fino a quando c'è Rina, c'è Provenzano, non possiamo riorganizzare Cosa Nostra. Quindi questi ancora comandano. Si può comandare con gli occhi o solo con la presenza fisica? Questo è importante, come dice Gratteri, è fondamentale. Beh, certo. Un amico mi scrive: Parenzo infame, anche il piccolo Giuseppe Di Matteo sciolto nell'acido avrebbe voluto una fine più umana. Ragazzi, ma cosa vuol dire? Le chiacchiere stanno a intanto, zero. Intanto però Di Matteo le fu chiacchiere... sciolto nell'acido da un signore che si chiama Brusca. Sì, intanto. Non c'è, però c'era dietro anche zio Rina. E quindi, sì, va bene, non c'è dubbio, ma nessuno dice che... Ma guarda che qui non stiamo parlando della... Tu dici della lo Stato non si può mettere a quel livello lì, ma nessuno lo vuole ammazzare con l'acido. Lo Stato, scusami Andrea Ruggeri. Perché mi chiami in diretta mentre sono alla Zanzara, amico mio? Sei in diretta anche tu. Vabbè, ti saluto, ti ringrazio. Non rivelare i tuoi segreti. E cioè, ti richiamo tra qualche minuto. Grazie, ti voglio bene. Ciao. Ti saluta Ruggeri. Bene, allora, Gratteri. Si può comandare con gli occhi o solo con la presenza fisica? Vai. Per comandare non bisogna fare bodybuilding, un pugilato, essere un sollevatore di pesi. Si comanda con gli occhi, con lo sguardo, ma anche la stessa presenza fisica. A casa è un messaggio. Anche quello è un messaggio, io ci sono, io ancora conto, io esisto. Bonnez, parlate di Pucchiac! Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta La Zanzara. Ma Parenzo, scusa, ma tu vuoi mettere fuori Rina e poi Kapler, quella gente lì, li volevi mettere al muro? Allora, Rina è un criminale uguale, sì, va bene, non ha sterminato 6 milioni di persone, ma voglio dire, più o meno il senso è quello, dai. Ragazzi, per uscire un po' fuori dalla vicenda Rina, poi vi faccio intervenire, potete cominciare a chiamare contro Parenzo, contro di me, contro tutti, fate quello che volete. E ieri, non so se avete notato, alla fine della trasmissione, il signor Fruttariano, amico mio, ha comunicato una cosa fondamentale che vorrei, come dire, rendere nota alla moltitudine di persone che è in collegamento questa: i fruttariani, coloro che mangiano solo frutta, in particolare mele, dice questo signore che si chiama Ceracchini, sostiene Ceracchini come sostiene Pereira, ti ricordi? Ceracchini. Non è esattamente questo. No, non è esattamente questo. Che la cacca dei fruttariani, addirittura melariani, è palline di merda e soprattutto non puzza. La cacca non puzza. È vero o no? Amici miei che mangiate solo frutta, ma non assistetemi in questa cosa qua. Dice che sono centinaia in tutta Italia, qualcuno centinaia. Ci sarà che sente la Zanzara, no? Cioè, tutti, sicuramente quelli ascolteranno tutti la Zanzara. Non solo ascoltano, ma saranno anche tra quelli che telefonano, su questo non c'è dubbio. Quei 100 che mangiano solo mele, vedrai che sicuramente la chiameranno. La cacca non puzza. Quando diventi fruttariano, ti assicuro che le feci iniziano a perdere l'odore sgradevole. E più vai avanti in questo percorso di perfezionamento alimentare verso il melarismo, e più, diciamo, defecare non è più un'esperienza sgradevole, perché lo sperma è migliore. E questa cosa è di una potenza incredibile, perché ognuno la può verificare nella propria vita. Al limite hanno un retrogusto di mela, ma parlo di stato pure avanzato di melarismo. Puoi anche mangiare a questo punto, diciamo, no? Già che ci sei, no, sei fame. No, perché sono no, quelli sono il cibo perfetto per l'albero del melo. Luciani, manda a fanculo Fruttariani. Sono 3 giorni che mangio frutta. La merda puzza uguale. Rossano da Grosseto, vai. Sì, due cose. Una veloce su questa cacca dei fruttariani. Io dico che uno quando fa la cacca vuole anche la soddisfazione che puzzi, perché sennò uno è inutile faccia la cacca, che poi neanche puzza, non sa di nulla. Niente. Pensa la che osservazione intelligente. Perfetto. L'altra su Rina, dico che non si doveva arrivare a questo punto, un vecchio malato si toglie dal carcere, rimane in carcere, esce anche con uno sguardo, può comandare. La pratica Rina andava sistemata alla cattura, direttamente sul posto. Cioè in che modo, scusa? In che modo? Devo essere più esplicito? E certo, se non sei esplicito qui, dov'è che sei esplicito? A Radio Bubù? A Radio, che ne so, da altre parti? A Radio Rai? Non credo, no? Cioè qui puoi essere esplicito. Non l'ascolto, per cui non mi molto bene, questa è buona, cosa buona, questa è cosa buona e giusta, sì. Nostro dovere, tuo dovere, fonte di salvezza, come si diceva una volta nelle preghiere. Io ho solo una trasmissione, quindi... Però Rossano, allora, come doveva essere risolta la pratica Rina? Non lo so. Parte un colpo di fucile, di pistola. Ho capito, doveva essere giustiziato subito. Certo, però ti posso dire che è sbagliato questo, perché non conosco bene la vicenda Rina fino in fondo, però è meglio catturarli i porci, è meglio catturarli i mostri, è meglio catturarli i maledetti, è meglio catturarli gli assassini. Magari raccontano delle cose interessanti, no? Cioè magari raccontano delle cose sulla mafia, eccetera, per cui giustiziarlo subito è sbagliato, cioè magari pensate o no. Sì, ma in Italia poi succede che diventa vecchio, poverino, è malato e bisogna toglierlo dal carcere. No, poverino, o evitare che succedano queste cose con determinati personaggi, si toglie il dubbio subito. Quindi la pena di morte. Ma la pena di morte non c'è in Italia, purtroppo. Cioè lui dice prenderlo, tipo come hanno fatto con Gheddafi, come hanno fatto per... È un bel modo di interpretare il nostro vivere civile, certo, lo stato di diritto. Avremmo parlato di cose più... Tu sai benissimo, David, che se chiedi per strada come vorrebbero Totorina, ma che vuol dire? Seriamente, non un ladro qualsiasi, come la gente vorrebbe Totorina, la prima cosa che ti dicono le persone è impiccato all'albero. Perché purtroppo homo homini lupus. Ma lascia perdere, ma non stiamo parlando Hobbes, di un ladro qualsiasi o di un rubagalline. Lo stato di diritto a questo serve, togliere quella bestialità all'uomo, per non dirla come Donato da Varese mi insegna. Con le parole di Hobbes, direbbe Mauro da Mantova, amo amini lupus. Anselmo, provincia di Milano, mi sa che abbiamo trovato uno dalla parte di Parenzo. Anselmo, provincia di Milano, sentiamo, incredibile. Anselmo, sicuramente sarà un professore. No, è ottimo. Sì. Anselmo, vai. Un notaio, un buon architetto. Vai, buonasera. Dimmi. Ecco, anche della voce. Assolutamente, né professore né notaio. Vabbè, vai. Anzi, operatore di giustizia, diciamo. Ottimo. Che vuol dire operatore di giustizia? Un avvocato sarà un funzionario di dei giudici, un cancelliere. No, il carabiniere. Carabiniere. Magnifico. Vabbè, vai. Un servitore dello Stato. Allora, Parenzo ha ragione su tutta la linea. L'articolo 27 della Costituzione ancora esiste. E allora? E quindi se la pena che è inflitta al condannato è contro il senso di umanità, questa non può essere inflitta dallo Stato. Bravissimo. Punto primo. Ma è Totorino. È un uomo dello Stato, abbi rispetto. È un funzionario dello Stato. Abbi rispetto almeno della divisa di quest'uomo. Ma che vuol dire? È un uomo dello Stato. Ma che vuol dire, Anselmo? È un uomo dello Stato. Ma chi se ne frega? Non è un coglione come Mauro da Mantova. È un uomo dello Stato. Luciani, posso aggiungere una cosa? Dimmi, Anselmo, prego. Grazie, anzi. Il signor Mario Moretti, a meno di 15 anni dalla sua cattura e dal suo arresto, ha iniziato a beneficiare della libertà. Malissimo. Bravo, Anselmo. Ma questa è l'Italia. Alcuna pietà. E te lo dice Anselmo. Ma sei d'accordo con questo? Certo, sei d'accordo che brigatisti hanno fatto 10 anni di galera e sono usciti? Ma gente che dieci? Ha ammazzato persone, 15-20 anni. Ma siete impazziti completamente. Uno dei mali dell'Italia è stato questo. No, ti ha detto e sarebbe l'uscita di Rina. Ci prenderebbero per il culo in tutto il mondo. Abbi rispetto per un servitore dello Stato che ti riporta alla Costituzione. Grazie, Anselmo. Siete in tanti. Lo so che siete in tanti, che volete la legge soprattutto. Grazie, Anselmo. Vabbè. Buonasera e benvenuti dalla vostra parte. Ti fanno andare a scuola? No! Adesso il capo ce l'hai, scuola non ce l'hai, niente non ce l'hai. Dai. Direttore pazzesco! Ma è una roba pazzesca! Non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, niente non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai. Pazzesca! Io vendere erba, dove la prende? Malpensa, tutto viene di là. Le Bergamo, sì! Le Nati, Bergamo, Malpensa, sì! E vendi l'erba, sì! È una roba pazzesca! Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. La Zanzara. Ma è una roba pazzesca! Cruciani, io sono d'accordo che Rina resti in carcere, ma le spese mediche per tenerlo ancora in vita li devono pagare i suoi parenti, non certo lo Stato, cioè noi, cazzo. Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024, oppure se volete mandare uno sfaccio i messaggi, coppa WhatsApp 393-7171-701. Ciao carissimi, grande, oggi Juve 3, Real Madrid 1. I grandi pronostici di Antonio Razzi. Allora, un ascoltatore mi manda una mail per Cruciani, visto che è appassionato di feci. Sì, adesso non esageriamo, appassionato. Beh, sì, sono appassionato, diciamo, di tutta l'antologia, di tutta la letteratura intorno alle feci. Non c'è dubbio, di questa cosa sono appassionato. Parenzo è appassionato della legge elettorale, per esempio. Beh, io sono appassionato della scala di Bristol. Lo sai che c'è la scala di Bristol? Sì, ne abbiamo parlato quest'anno alla Zanzara. Sì, forse sì, te la sei scordata, no? Come fai a dimenticarlo, insomma? La scala delle feci di Bristol, non te la puoi dimenticare? O sbaglio, no, per carità, non mi ricordo perfettamente alla lettera. Allora, per Cruciani, riguardo al fruttariano che dice che mangiando solo mele si defeca a palline, vorrei far notare che le cosiddette palline in gastroenterologia sono classificate come feci di tipo 1, ossia massimo esempio di stipsi, frequente più nelle donne che negli uomini. L'obiettivo è cagare tipo 3-4, cioè 3-4 secondo la scala di Bristol. Non vorrei ripetere la scala di Bristol, Parenzo, non mi sembra il caso, soprattutto no, è un argomento già trattato. Esatto. Però nella scala delle feci di Bristol, tipo 1, sono grumi duri separati tra loro come noci, dunque come noci, difficili da espellere. Ragazzi, sarà pure inodore, però questi grumi duri, queste palline sono difficili da espellere se diventi fruttariano o melariano. È un problema serissimo. Anche Bagatta dice: da quando sono diventato vegetariano, caro Parenzo, effettivamente questo l'ottimo Bagatta, completamente il cervello è completamente in pappa. Il cervello di Bagatta, no, Bagatta è completamente questo in pappa. Questo non puoi dirlo. Cervello in pappa di Bagatta, fa pure rima. Cervello in pappa di Bagatta, amici miei, uno che dice: da quando sono diventato vegetariano, anche le mie feci effettivamente puzzano meno. Amico mio, ormai, cioè, il cervello è andato completamente, dai, completamente andato. Allora, io trovo incredibile quello che sta avvenendo nelle Marche. Cosa sta avvenendo nelle Marche? Voi sapete che uno dei paesi colpiti dal terremoto l'anno scorso si chiama, forse anche l'epicentro del terremoto, uno degli epicentri del terremoto, Pescara del Tronto, provincia, sì, di Ascoli. Ad Arquata, paese lì vicino, c'è stata una lite tra sfollati per l'assegnazione delle casette. Urla e lacrime durante l'assegnazione a sorteggio. Assegnazione a sorteggio delle prime 26 casette ai terremotati. A parte il fatto che le prime 26 casette sono state consegnate una decina di mesi dopo il terremoto. E lasciamo perdere questa vergogna. Si potrebbe addirittura rivalutare Berlusconi all'Aquila. Si potrebbe addirittura rivalutare Berlusconi all'Aquila. O sbaglio, David? O sbaglio? Sì, no, senza dubbio. Io te l'ho detto e lo dico. Berlusconi all'Aquila ha fatto un ottimo lavoro. Ma lo dicono gli aquilani stessi, mi pare. Perché adesso... come si fa? Sì, no, ma io non ho nessun motivo di difendere Berlusconi. Non lo so se ha fatto un buon lavoro o no. A me hanno, sì, ha consegnato le casette. Poi lascia stare quello che è venuto fuori. Cioè, però le case le ha consegnate. Ha mantenuto i tempi che aveva promesso. La cosa assurda. E non ha fatto l'estrazione del lotto. Ma questa è la follia. Il sorteggio per l'assegnazione delle casette ai terremotati, agli sfollati. Ma di che parliamo? Il sorteggio. Ma dovreste vergognarvi di fare il sorteggio. O le date a tutti, non fate il sorteggio. No, il sorteggio è incredibile. È incredibile, dai. Il sorteggio è incredibile. Get some rules to follow. cosa che ti voglio dire, caro David, sì, che quando sono stato a Londra ho visto un cartello. A Londra sei stato? Sì, sì, beh, certo, anche a Londra. Beh, bravo, a fare domenica alla finale. Londra. Ma no, quello a Cardiff sabato, poi sono andato a Londra. Anche a Londra si è andato? Beh, sì, certo. Ma saranno cazzi miei, non si può. Per due giorni sono 6-7 mila euro, va bene, No, molto speso però. Però 10.000 euro speso. No, due allora, meno. Cari ascoltatori della Zanzara, il signor populista Cruciani, ma non è vero, ha quello che voi difendete, ha speso 10.000 euro a Londra per un weekend. Ma assolutamente non è la così. Juve con i signori Agnelli, ospite degli Agnelli. Ma non Agnelli. È vero, non è vero, non è vero, abbiamo detto poco male, beh, dimostra il contrario. L'abbiamo detto intanto. E poi ha preso un altro aereo da Cardiff e è andato a Londra. Ma non è stato vero, in ma un grandissimo albergo su Regent's Park, e ha speso per due giorni 10.000 euro. Ma non è vero. Ditemi voi se questo è dignitoso rispetto alla gente che non ha lavoro, rispetto agli amici tassisti. Ma non è vero. 10.000 euro spesi da Cruciani per due giorni. È modo di fare questo? E ce lo viene a spiattellare anche qui in radio. Almeno tientolo per te. 10.000 euro per due giorni sono 5.000 euro al giorno. Ma non è calcolate vero. Calcolate allora quanto ha speso. Ma non è cioè vero, questo è tutto... signore, se fate il conto allora, guarda, ve lo faccio io di quanto ha speso allora. Allora il nostro Cruciani sono 10.000 euro per due giorni e abbiamo fatto un conto ristretto, come dire, ma non è che l'abbiamo vero, detto, non perché vero. Potrebbero essere anche di più. Quelli che noi sappiamo 5.000 sono 5.000 diviso 24 devi fare. 5.000 diviso, ma non so, è vero. Grazie, poi. Sono 5.000, anche se ho fatto il liceo classico, diviso 24, ha speso 208 euro all'ora. Ragazzi, 208, diciamo 209 euro all'ora. Voi questi soldi in quanto li guadagnate? Lui in un'ora ha speso 209 euro per sì, un sì. suo maledetto weekend. Cruciani, che poi difende quelli che abitano in periferia, quello che si scaglia contro i moralisti, 209 euro all'ora. Giudicate voi. Allora, c'era un cartello della polizia, di Londra, della polizia britannica, che dà consigli su come affrontare un attentato. Ragazzi, in questi consigli non ce n'è uno che ti dica aiuta uno che è in difficoltà. Zero. Run, hide, tell, che significa corri il più lontano possibile, nasconditi, chiudi il cellulare, leva la vibrazione dal cellulare, certo, e quando sei al sicuro chiama la polizia. Cioè non ce n'è uno che ti dice aiuta quello che sta morendo. Vabbè, aiuta però, la vittima dire? Della. No, ma non voglio dire niente, ma l'ho trovata abbastanza incredibile. Run, hide, tell. E questa è una vergogna! No, ma non è una vergogna! Questo non lo l'altro so. L'altro cervello in fuga. Franco da Napoli, vai, Franco. Ciao Cruciani, sono dimmi. Batman di un mese fa, se ti ricordo, con Parenzo. Volevo Batman. Approfittare che sono sulla carta del cesso, volevo parlare con Parenzo. Sì, sì, sì. Per il discorso di Totò Riina. Sì. Volevo dargli un consiglio oppure un suggerimento. Cioè, adesso perché c'è uno che telefona casa, dal bagno e te lo dice fine. Pure. No, dico, siamo meglio. Parenzo, Totò Riina a casa in modo che l'aiuta a morire lui, perché non lo fa questo? Bella, perché bella ogni idea, volta questa. È una proposta, scusami, è Parenzo, una proposta, ho capito. Sei sulla tazza del cesso tu, Franco, non ho capito. Sì, sto pensando a Parenzo e sono sulla tazza del cesso. Bello, sto bello, mi fa piacere avere una funzione per lei. Il signor Franco da Napoli che telefona. Chiedimi, per dire io ti chiedo una cosa, Parenzo, ma è possibile che tu difendi tutto indifendibilmente, difendi tutto quello che puoi no, gli idioti non li difendo, infatti lei non la difende. Ah, gli idioti, però capito, tu le parole idioti. Le puoi dire, però se te le dice uno dopo dici dipende. Faccio la querela. No, dipende dal tipo di offesa, va tutto va valutato. Franco, via, ma via. Sei davvero sulla tazza del cesso? Sì, sono sulla tazza del cesso e sto pensando a lui. Questo l'abbiamo capito. L'ho visto in televisione. Questo l'abbiamo capito. Ma mi è andata una cosa di corpo. No, che ieri sera è impossibile. Cruciani, ti giuro, sono andato di corpo che tu non hai idea. Perché le stronzate che dice ti fa venire proprio la voglia di andare a casa. Faccia sentire, allora faccia sentire lo sciacquone. Ma non ti faccio sentire, non ne varrebbe la pena. Poco allora non è vero. Poco fa hai detto di un ascoltatore che il suo parere vale tanto la carta igienica che tu usi. Sì, quella è più utile. Ti sembra una cosa normale? Sì, nel caso di ti Mauro D'Amato, è andato da Varese. Sì, quello che hai detto di Totò Riina. Sì. Lui deve morire in carcere, deve passare tutti i giorni, le malattie più improbabili deve avere, fino alla fine in carcere. Lei è uno proprio, stato serio. Lei è proprio stato cresciuto serio. Alla scuola del professor Zagrebelsky. No, vedo. Io non sono alla scuola, io sono alla scuola del diritto. Sì, quello di Zagrebelsky. È stato condannato proprio. E deve morire in carcere. Qual no, è il tuo problema? Come le ha raccontato l'ottimo carabiniere servitore dello Stato che ha Anselmo, che ha chiamato poco fa, Anselmo ricordava la Costituzione italiana, che è quella che non le si chiede a lei di conoscere. conoscere. Ma se non magari altro ci si pulisce il culo con la Costituzione. Mi ci pulisco il culo, non l'ho sentito perché stavo passeggiando la macchina, non ho sentito. Ho sentito, elegante. Scusami un attimo, sì, io voglio chiedere una cosa, ti sembra una cosa, lucidamente, senza scherzare, ti sembra una cosa giusta quello che ha fatto quella persona adesso che è in balia dei fantasmi della morte, che deve essere aiutato oppure deve stare intorno alla famiglia? Ti sembra una cosa giusta? Mi sembra giusto. Ma non è esagerato che questa carcere non è, mi sembra giusto perché lo prescrive la legge civile, che se un detenuto non viene assistito in modo adeguato debba essere trasferito in una struttura ci sono, che lo a parte assistere. Che ci sono detenuti e detenuti, ci sono detenuti e detenuti, e Rina non può mettere piede fuori la... anzi già il fatto che l'avvocato abbia detto che è fuori dal carcere è già una vergogna, è già una vergogna. Ci sono reparti, ci sono reparti, mi ha chiamato uno prima, c'è una scritta qua, opera eccetera, ci sono reparti in carcere che possono assistere tranquillamente le persone, tranquillamente in carcere, in galera. Fabio da Torino. Fabio. Molto buonasera. Dimmi. Molto buonasera. Mi senti? Dimmi. Intanto veramente complimenti. Vai, non ce ne frega niente, dai. No. Ma certo culturali, devo dire. Che culturali, ma quando mai? Altamente culturali. L'Italia con voi cresce. Comunque ho chiamato per un altro motivo. Che ironia sui fruttariani che cagano a pallina, non ho capito. Ma smettila, dai, veramente. Allora, ma qual è il problema? Non ho capito, non si può parlare di fruttariani che cagano a pallina? No, guarda. Ma guarda che, ma guarda un cazzo. Allora, incredibile. Domani sera andrò a pagare 150 euro per una visita specialistica e qui mi si chiede di fare morire Totò Riina a casa. Io in carcere non gli assicurerei neanche le cure. Io pago l'IRPEF e la pago per lui, perché io domani sera vado a pagare 150 euro da un privato, perché se metto col pubblico, ciao, e lui gode dell'IRPEF che pago. Cioè della tu dici togliere l'assistenza sanitaria a Rina, farlo morire senza assistenza sanitaria. Però a questo punto, ho capito, uno può nutrire anche i sentimenti di odio nei confronti di Rina e sono legittimi, però se vai in carcere, poi non è che lo puoi fare morire di inedia in carcere, mi sembrerebbe una follia, allora meglio dargli un colpo di pistolettata come voleva fare quello prima. Cioè decidetevi, o facciamo il colpo di pistolettata perché è Rina e va bene, d'accordo, però se è in carcere l'assistenza sanitaria in carcere deve essere assicurata. In carcere, io dico, in carcere, in galera, al 41 bis, al 41 bis. Ma allora, non lo decidete voi, sono contrario alla pena di morte, ma non dovrebbe essere curato con i miei soldi. Cioè, ma con quali soldi? Tu dici con i soldi, venga curato con ma i soldi che hanno Irina o con i soldi che si vuol dire? Aspetta, fermo, magari sequestrati fermo come i beni mafiosi, ma che c'entra? Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Volevo salutare Parenzio. Sì, Parenzio, come cazzo si chiama? A me l'idea che Rina possa vedere la luce del giorno o godersi il mare mi dà il volta stomaco. No, scusate, messaggio per quel genio fenomeno di Parenzo. Ma un terrorista palestinese che ha ucciso diversi ebrei, arrestato a Gerusalemme, messo in galera, che ha 86 anni dopo 30 anni, ma nemmeno 20 anni di carcere, cosa fa lo Stato di Israele? Lo libera perché è malato e vecchio? A pare, ma vaffanculo, va! Sei un gabinetto schifoso! Parenzo adesso si strugge per la possibilità di Totò Riina di morire degnamente a casa, ma quando Priebke morì in ospedale non vuole nemmeno che venissero celebrati i funerali. Testa di cazzo. Testa di cazzo, guarda, sei un bastardo, guarda che tu finirai male, coglione che sei altro, guarda. Parenzo, sono morti dignitosamente quelli che ha fatto uccidere lui? A Allora ragazzi, allora questi qua hanno perso l'occasione per stare zitti, ma in particolare perché? Un idiota, uno dei tanti di quelli che hai messo di questo ventaglio di voci, uno ha detto la castronata più grande, il funerale di Priebke. Fu lo stesso prefetto a ritenere inopportuno che quel funerale diventasse pubblico per evitare che i soliti neofascisti andassero a baciare la salma del criminale nazista. Quindi, perché diventava una specie di funerale tipo quello di Casa Monica, celebrando il signor Priebke. Non si poteva fare il funerale Priebke? Non ho capito, ma sei impazzito. Infatti è stato fatto, ma in forma privata, senza far venire la dunata di nazisti a baciare la pantofola alla bara del terribile assassino. Cioè, cosa c'entra questo? Il prefetto stesso lo disse. Un coglione mi sta scrivendo: conigli di Piazza San Carlo, quelli di Torino, pensa, come scappavate merde, che cacarella avevate, vi piace il Vesuvio. È un coglione, che continua a scrivere. No, non lo so qual è il nome. Mi scrive su WhatsApp. Che cacarella avevate. Avere il tuo numero, il WhatsApp della radio. Il WhatsApp della radio. A proposito di Torino, il tuo amico Davide Piccardo, che è diventato uno dei principali... Oh, non è un mio amico Piccardo. Sì, è un tuo amico. No. È un tuo amico, una persona che rispetti, una persona che... Non le sue posizioni su Israele, allora, Davide Piccardo, che è uno dei principali esponenti delle comunità islamiche italiane ormai. Sì. Possiamo dire che sarà il futuro leader degli islamici italiani. No, secondo non me. Possiamo come dire no, questo, lo dico ma... io. Dice, la responsabilità dell'incidente di Torino non è dell'Appendino, ma dell'alcol, ha detto. Siccome lui da musulmano dice che l'alcol è il male, poi magari si ebriaca di birra ogni sera e si fa le botti di whisky, magari. E ci sono una marea di islamici che bevono come pazzi nonostante non si possa fare. Questo è anche vero, io sono stato a Dubai tempo fa e te lo posso testimoniare. Per cui la responsabilità dell'incidente di Torino non è dell'Appendino, dell'alcol. Se una stronzata simile la dicesse uno qualunque, non ci sarebbe questo accanimento. Siccome lui è di fede islamica. No, ma che c'entra? Allora ogni cosa viene esasperata. Perché lui gli dà... è una minchiata che può dire chiunque. Ma non c'entra niente. In questo caso lui gli dà un senso religioso a questa cosa qua. Ma non lo e so. E come no? Senti che dice anche, sai che c'è uno Mohammed che ha salvato una persona lì, sì, ha salvato delle persone, no? Ecco, certo, allora lui dice, grazie a... è uno degli eroi. Di vabbè, gli eroi, non esageriamo. Grazie a Dio c'era Mohammed. Grazie a Dio Mohammed non si ubriaca e ha avuto la lucidità necessaria per salvare un bambino. È una sciocchezza. Grazie Mohammed. A parte Piccardo, che cazzo ne sai che non si ubriaca? Sì, però... magari è un ubriaco lo stesso. Grazie a Dio c'era Mohammed. Magari c'erano anche altri non musulmani che hanno salvato delle persone. Però sull'opinione di Piccardo, in questo caso ho detto un'emerita sciocchezza, secondo me, si scatena questa ira di Dio semplicemente perché è islamico. L'avesse detto un Giulietto Chiesa qualunque, avremmo detto, ah vabbè, dai, non una è vero, follia, tu l'avresti massacrato lo stesso. Io l'avrei massacrato, allora... ovviamente, come sto dicendo che è una sciocchezza quella di Piccardo oggi, ma non perché è islamico, perché una sciocchezza è una sciocchezza. Allora, centinaio contro Nur Alam. Aspetta un attimo, dove è avvenuto questo scontro? O dalla vostra parte, dalla vostra parte. Dalla vostra parte. Centinaio Lega Nord contro Siddiq. Ma praticamente Siddiq Nur Alam, che è del Bangladesh. Viva il Palatino, viva Mediaset. Appuntamento fisso con Canale 5, con Rete 4, che cazzo che è. Io suggerirei però agli amici dalla vostra parte di fare dei collegamenti anche dai kebabari. Questo lo suggerirei proprio. Questi qui occhi vendono questo kebab, no? Che gira, sempre con l'odore meraviglioso, buonissimo di kebab. Fate un bel collega. Mandate la Santa anche a mangiare un kebab. Questo potrebbe essere divertente, ad esempio. O Marcato, il grossissimo Marcato. Siete Marcato della Liga, che insomma è abbastanza, no? Anziché mangiare polenta Marcato, mandate Marcato da un kebabaro. È anche in dubbio il fatto che la maggior parte, o perlomeno il 100% dei terroristi che ci sono in questo momento in giro per l'Europa sono musulmani. Io non ricordo un terrorista che va in giro per l'Europa a gridare Gesù bambino è grande. Io ricordo che i terroristi vanno in giro a gridare Allah è grande. Torino che cosa è accaduto? A Torino, a Torino c'è stata la psicosi causata dalla gente che professa la sua religione. Nel momento in cui la gente che professa la sua religione va in giro per l'Europa assolutamente a fare atti di terrorismo, purtroppo a Torino c'è stato paura, un atto di psicosi collettiva da terrorismo. Pinch, va bene, vaffanculo. Tu sai, dunque, la tesi di Centinaio della Lega è che a Torino la psicosi è stata causata da chi professa l'Islam. Cioè l'Islam sarebbe colpevole per il fatto che noi abbiamo la psicosi dell'attentato, dunque l'Islam colpevole dell'incidente di Torino, secondo il signor Centinaio. Vabbè. Però non è una tesi del tutto assurda. Mi scrive intanto Marcello Vinonuovo, che è uno dei conduttori e anche degli autori dalla vostra parte, che scrive: prossimo inviato Parenzo che fa il Ramadan in Qatar. Hanno presa bene. Giuseppe, provincia di Ragusa, vai. Sì. Dimmi. Salve Cruciani. Sì, dimmi, dimmi. Niente, ti volevo dire che la tua ipocrisia la sente ridicolo. Ma su che cosa, scusa? Su che cosa? Totorrina. Cioè? O decidi che c'è la pena di morte in Italia. Esatto. E ci sono 1500 Totorrina come capo di imputazione li ammazziamo a tutti. Bravo. Oppure non c'è la pena di morte, lo Stato ha vinto contro la stragista, lo lucido. Stato è più forte. Vai, e lucido. Lo Stato fa lo Stato, con bravo. I coglioni lo fa lo Stato. Bravo, lucidissimo. Stato e si volta pagina. Si volta pagina, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Offrire come cosa ha detto la Cassazione, che la morte dignitosa a Totorrina. Lo sai cos'è l'ergastolo stativo? Lo sai cos'è? Ma stai c'è gente che ha 20 anni, che ha 50, ancora deve uscire perché esiste Totorrina che ha fatto delle cazzate. Lo e capisci allora, questo? Che vuol dire? Che non ho capito che cosa vuol dire. Spiegami. Cercalo di capirlo. No, no, spiegami cosa vuol dire. Cosa vuol dire? Allora, in Italia mi sembri c'è molto questo... esperto della materia, non molto so perché. Esperto, mi molto sembri esperto, molto esperto della esperto, materia mafia. Molto esperto Cruciani, della, molto esperto, della materia mafia. Molto esperto. Mafia. Ci sono 1500 persone in carcere con l'ergastolo stativo. Sì. Che sono trattati alla stregua di un dottorino che ha fatto solo delle cazzate di cui sarà pentito, credo. Come cazzate? Cazzate. Che vuol dire cazzate? Le chiami cazzate quelle? Le chiami cazzate? Quelle sono cose immonde ah, che bene. Non ha fatto. E allora gli altri che di cui allora parli tu? Questi 1500 che hanno lo stesso capo di imputazione, cioè il gastro stativo, che fa? Li ammazziamo? Decidi di ammazzarli? Allora dillo, senza ipocrisia. Non lo so perché non siamo in carcere, ci saranno delle ragioni. Ci saranno delle ragioni. Ci saranno delle ragioni. Come mai difendi? Come mai difendi questi qua? Si pone alla grande, cosa fai con 1500 persone che sono entrate a 20 anni e ora sono persone completamente diverse, le ammazzi? Ci sarà una ragione per cui stanno in galera questi qua, no? Ci sarà una ragione. Hanno fatto dei reati e hanno pagato, perché l'ergastolo in Italia si paga 26 anni, non si paga 50 purtroppo, anni. Purtroppo, ma dico io. Ma cambia le leggi, cambia. Ah, tu sei contrario, sei contrario all'ergastolo, mi pare di capire, io no? Io sono per la chiarezza, facciamo la pena di morte e li ammazziamo. Vabbè. È inutile tenere bravo. Una persona 50 molto anni in carcere. Lucido. Che cazzo significa tenere bravo. Una persona 50 anni anche in carcere? Esatto. Anche 200. Ogni tanto anni, bisogna ci farsi sono sentire. Ci sono pene a 200 anni. E questi quattro coglioni che ti seguono, bravo, che non bravo. Sanno che non fatevi sanno un sentire, cazzo di giustudenza. Ma lascia perdere la giustizia. Fatemi sentire che siete tanti. Non fare ogni tanto, ogni tanto va alzata la voce. Non bravo. Fare il leguleio, non fare il professorino, il non fare l'avvocato. Bravo Giuseppe. Sei un ipocrita. Bravo Giuseppe. Questi qua devono stare in Giuseppe da Ragusa. Perché non si è posto il problema? Devono stare in galera. Facciamoci sentire ogni tanto, bravi. Non si è posto il problema, Cruciani. Devono stare in galera. Devono stare in galera. Punto e basta. Decide, fai una legge per farli stare in galera. Ma infatti questo ha preso 12 ergastoli, 14 quelli che sono. Sta in galera, sta in 41 bis. Ma in Italia l'ergastolo stativo è per 1500 persone che non sono Totorrina. Lo capisci questo? E vabbè, se hanno preso l'ergastolo, se hanno preso l'ergastolo, lo meriteranno l'ergastolo. Lo meriteranno. Che fai? Difendi quelli che quando hanno fatto 30 anni, che cosa sono contrario al fatto che uno faccia 30 anni ergastolo. E allora cambia le leggi, infatti, non metti la pena di morte, ci fai no, figura, la pena Cruciani. Di morte no, l'ergastolo vero, l'ergastolo vero, non la cosa finta che c'è in Italia, che ma non è ergastolo. Cosa finta? C'è gente che ancora dopo 30 anni ancora in carcere. Ottimo, ma ottimo, ottimo, ottimo, ottimo, ottimo, ottimo, ottimo, 30 anni. E allora metti la pena di morte. Perché pena di morte? Cruciani. Perché pena di morte? L'ergastolo sia fine pena perché mai, fine pena mai, fine pena mai, fine pena mai, fine pena mai. Va bene, chi se ne frega? Fine, la gente che ammazza, la gente che ammazza e fa le stragi, c'è scritto fine pena mai, e così deve essere, fine pena mai, non che dopo 28 anni, 25, se non addirittura meno te ne vai a casa, capito? Poi casomai i tuoi amici rossi sono tutti a casa. Come mai? Rossi no, non c'ho nessun amico. Come mai? E come mai difendi? Come mai difendi questa gente? Come mai difendi questa gente? Come mai? Dalla provincia di... perché significa che ho qualcuno che mi sta a cuore, che lo difendo, perché è entrato a 20 anni, ecco, e a 50 anni sta ancora in carcere. Avrà fatto qualcosa? Come mai? Che cazzo me ne frega a me di Totò Riina? Che significa questo Stato italiano? Direttore pazzesco! La Zanzara. Allora ragazzi, chiamiamo l'avvocato di Riina, vediamo, sentiamo qual è la situation dopo le parole di Gratteri. La parola di Gratteri, che ha detto, procuratore Gratteri, magistrato, grande magistrato, antimafia, eccetera eccetera. Oggi che cos'è che fa Gratteri, che non me l'ho scordato? Che ruolo ha Gratteri? Manco lo sai. Fa il procuratore della Repubblica a... Dove? Non mi ricordo, vabbè, comunque chi se ne frega. Gratteri ha detto che Riina può comandare la situazione anche solo con uno sguardo, anche solo con uno sguardo. L'avvocato di Riina, Cianferoni, chiamiamo. Pronto? Eccoci avvocato. Parenzo, come andiamo? Bene, però sono a una riunione, che volete da me ora? Una cosa semplicemente al volo, il signor Riina, con gli occhi, riesce a comunicare, a parlare, a farsi capire come dice Gratteri o no? Ma le fare una domanda da fare? Beh, dai, su. Beh sì, però è il tema, mi pare. Lascio al dottore Gratteri fare queste affermazioni, il mio commento è il silenzio. No, però sono Cruciani, avvocato, buonasera, buonasera. Sì. Quando Gratteri, che è un procuratore importante, dice che Riina comanda con gli occhi e solo la presenza è pericolosa, beh, c'è da rispondere a quello che dice Gratteri, che è un magistrato importante. No, perché no. Sono provocazioni a cui si risponde con il silenzio. Beh, però Gratteri... I latini dicevano o fortest silentium. Ma scusi un attimo, no, ma Gratteri però... scandala eveniant, non silenzio. C'è un'altra cosa. Però scusi un attimo, Gratteri conosce... È un'altra massima. Cioè lei dice che Gratteri non... Lei dice che Gratteri non conosce la situazione? No, io dico che adesso stavo lavorando, siete simpaticissimi. No, ma 5 minuti, avvocato, 2 minuti solamente. Dai, ma... Ma solo 2 minuti. L'ergastolo, se uno ha preso 14 ergastoli, che senso ha uscire anche in una situazione clinica grave? La situazione è grave, non ci possiamo fare tanta ironia. Chi dice comanda con gli occhi, comanda col soffio di vento, comanda... Sono frasi che veramente non mi sento di commentare. Sono frasi ridicole, avvocato, sono frasi ridicole? No. Sono frasi di chi non conosce, di chi non conosce la realtà? No. Guarda, auguro buon lavoro al dottore Gratteri. No, ma siccome lei ha già detto che è una provocazione quella di Gratteri. Cioè, è una provocazione, questo lo posso dire, nessuno ha, penso da contraddirmi di avere chissà detto quale cosa. No, però lei capisce che se uno può comunicare una cosa, se uno è un vegetale, e io non voglio entrare nella privacy di Riina, anche se è una persona al 41 bis, seppur fuori dal carcere come ha detto lei, però se può comunicare con l'esterno anche solo con i cenni è una cosa, se lei mi dice no, è un vegetale, non può fare nulla, è un'altra, è importante o no? Senta. No, ma questo è veramente importante, non è una provocazione la mia, avvocato. È una dialettica che è piacevole da seguire, ma non... Dai, su, sono stanco, sono stato tutto il giorno all'opera, devo finire. No, ma lo capisco, però è importante sapere se può comunicare, cioè se può dare dei cenni... Secondo me no. Non può comunicare. Ormai a un livello molto giù di tutto, insomma. Cioè, per cui quando Gratteri dice che comanda con gli occhi è una cosa sbagliata. Non ma può... No, ma c'è un aneddoto. Se uno va a vedere questa frase di tanti anni fa, oltretutto, è un remake, perché su questa frase alla fine ci hanno condannato il fratello del Riina anni fa. Mm. Ora Riina ne ha 86, va per 87, suo fratello ne ha 83. Continuiamo così, diceva Moretti, come finisce? Continuiamo così? Facciamoci del male. Continuiamo così. L'ha detto lei però, facciamoci... amico mio, però. No. Però scusi. Dai, ragazzi, vi rivelo un segreto di me stesso medesimo in quanto tale. Ci dica. Sentiamo. Ero ragazzino e facevo radio, quindi con me gnava fate. No, ma che c'è? Mica bisogna ottenere quelli... Però scusi, facevo una trasmissione, senti, si chiamava La Luna e una lampadina. Stupendo. Sulla La Luna e una lampadina. Correva l'anno per me, 81-82, il pentapartito, vincevamo il mondiale. ed ero per il Brasile perché era la più grande squadra che si sia vista. Cioè, lei era lei è l'avvocato di Dire ed era pure contro l'Italia nel mondiale dell'82. Avvocato. Assolutamente, cioè, sì, perché c'è un centrocampo quel Brasile che non ce l'hanno neanche, non so. Ecco. Ma lei sta sempre dalla parte sbagliata. Lei sta sempre dalla parte del torto. Beh, chiaramente sempre ti fa bellissimo. In direzione ostinata e contraria. Immagino che tifava, che tifava. Immagino che tifasse per il Real Madrid. Assolutamente sabato. Sì. E lo vedo. Pure. Ce l'ha. Vabbè. Ho capito. Assolutamente prossima, sì. Prossima Modric. Cosa che farà? Vogliamo difendere, vogliamo difendere, che ne so, gli ultimi dittatori sulla terra? Sì, ecco. Vogliamo appunto. Difendere dove Kim stanno? Jong Kim Jong Un, Kim Jong Un. Kim Jong Un. No, dai, no, dai, no, dai, dai, dai, dai. Ma lei Hitler lo difenderebbe? Se paga bene. Beh, ormai è difficile. Come se paga bene? Ma no, non c'ha dei paletti. Dai, no, ma dei paletti. Mi fate. Io difendo un uomo, io difendo uno, quando mi nominano difendo l'uomo. Beh, è abbastanza un mostro, eh? Lei difende un mostro, diciamo la verità. Rina è un mostro. Però, dai, no, non glielo permetto, non glielo permetto. Perché è un essere umano che sta soffrendo. Quando uno va in galera, può aver fatto la qualunque, diventa sacro. Dicevano sempre quei latini, bisognerebbe insegnare alle elementari. È assistito male, secondo lei, adesso? No, i medici sono molto bravi. E allora, ma non basta questo? Non basta questo, avvocato, questo seriamente? No, no, no, è un bel passo avanti, voglio dire. Cioè, chi ha fatto, per esempio, ora una roba seria, no? Chi ha fatto il paragone di una volgarità e bestialità unica, cioè? Con Provenzano dicendo ah ma Provenzano è morto in carcere, ci deve morire Rina, non lo so chi l'ha detto, sì. Ma è una cosa di una volgarità, di una bestialità indegna di un paese civile. Ma perché morire, morire in carcere? Rina almeno qualche cura la sta ricevendo. Ma vabbè, la cura va benissimo, ma le cure va benissimo, il fatto è di tornare a essere... Sì, ma se voi la sapete tutta la storia, sì. Voi vi chiedete ma perché allora questi si scandalizzano tanto, ma cosa va cercando la difesa? C'è dietro una roba, che poi le dirò ovviamente nelle dovute sedi, che dirai, vabbè, in questo caso la difesa li ha messi in scacco. Poi ovviamente ci danno torto, perché loro hanno il potere, io c'ho solo la dialettica, però almeno di far vedere che hanno torto ma loro. Ma loro hanno il potere chi? Lo Stato, chi? Amico mio, però loro hanno il potere, ci sono 14... No, noi, loro, li chiamiamo loro. Sì, cioè, inquirenti piuttosto che forze dell'ordine. Quindi, quando lei dice però, avvocato, scusi, loro hanno il potere, dice una frase molto forte, cioè loro hanno il potere e ci impediscono. Normale, la dice qualunque avvocato, cioè, voglio dire, noi non abbiamo potere per fortuna. Io posso provare a convincerla, ma poi se lei è il giudice decide lei, perché lei ha il potere, io non ce l'ho, io sono per la libertà. Ma la famiglia lo aspetta a la famiglia lo aspetta a Corleone? Assolutamente penso di no, questo penso proprio di cioè no. Lui non tornerà mai a Corleone sì. A morire, dico, a morire. Non credo. E allora che cosa vuole ottenere di più? La scarcerazione per andare dove? Dai, siete simpatici, 2 minuti sono passati. Dai, ci sono i vigili che fanno le multe. I vigili che fanno le multe. Grazie, che gli frega, è l'avvocato di Rina. Gli spaventerà mica la multa, scusa. Arrivederci, avvocato, arrivederci. Metto giù. Arrivederci, sì, grazie, sì. Grazie. Perché a noi la qualità ci ha rotto al cazzo. Siamo il top. Siamo il top! Ma va suca! La zanzara. Arenzo, ti schieno quando vuoi. Come Macron! Giuseppe, quando vuoi. David, quanto ce l'hai lungo il tuo zin? Allora, caro Parenzo, una candidata della lista Bitonci sì? Sindaco. Cos'è Bitonci Sindaco? Beh, Bitonci Sindaco è uno dei candidati, forse il favorito nella corsa a diventare il nuovo sindaco di Padova. Non ti sei voluto candidare e a Padova adesso molto probabilmente verrà eletto signor Bitonci, amico mio. Non ho capito. Hai nella tua Padova sarà rieletto molto probabilmente signor Bitonci come sindaco. Signor Bitonci. Il signor? Sì, lo so, ma non lo conosci, fai finta di non conoscere. Sì, ma non lo trattare come un appestato. Ah, quello che ha fatto il sindaco anti-kebab. quello sì, dici anche, quello ma che è stato fatto cadere da Forza Italia. Ma se la gente lo voterà, che succede poi? Ah, il sindaco anti che va, rimango residente a Roma, ovviamente. Una candidata. Io già sono venuto via da quando lui è sindaco, ho tolto la residenza da Padova, da un po' veramente non ce l'avevo più, avevo intenzione di tornare e invece sono dunque stai aspettando, se mai dovessi tornare potrei anche riportare, stai aspettando però l'esito delle elezioni per tornare a prendere la residenza a Padova. Sono in esilio, mi considero sull'Aventino, ecco, appunto, mi considero Parenzo sull'Aventino. Due punti, mi considero in esilio da Padova, esilio a Roma, finché esatto. C'è Bitonci, ecco, bravo. Allora, nella sintesi. Lista civica Bitonci sindaco c'è una signora che si chiama Elena Cappellini, candidata consigliere della lista del sindaco, che è stata ritratta con il saluto romano durante una visita a Predappio. Ma che belle persone! Una visita a Predappio. Ma che belle persone! Lei dice nulla di male. Nulla di male a candidarsi con Bitonci, immagino. Non a tutto ero questo. In visita al museo di Mussolini ed ho fatto il saluto considerato il luogo in cui mi trovavo. Ha spiegato la candidata. Faccio parte di quella destra che ha molto da dare e nulla da recriminare. Sono orgogliosa di far parte della destra sociale. Bello, si sa. Anche perché ho fatto un mio percorso di formazione. Supporto Massimo Bitonci, eccetera, eccetera. Bello, complimenti. Non c'è nulla di male a fare il saluto. Boh, no, è veramente un reato comunque. Cioè, secondo te questa candidata andrebbe presa e incriminata per apologia di fascismo? Ma andrebbe incriminata in base alle leggi esistenti, non alla legge Parenzo. Dai, una legge che si chiama Mancino, che porta il nome di un ex ministro degli interni, come tu sai. Vabbè, Nicola Mancino. Andiamo ad Andrea Mancino. Da Perugia. Andrea, vai, Andrea, dimmi. Eccomi, buonasera a tutti. Dimmi. Cosa devo dirti? Siete voi che mi avete chiamato? Ah no, avevo chiamato io, giusto. Dimmi Andrea, dimmi. No, volevo dire sulla cacca che puzza, che sembra l'argomento principe. Sì, perché? Beh, diciamo che la putrefazione delle proteine animali, ma anche vegetali, ovviamente, visto che ristagnano l'intestino per molte ore, ovviamente non è che digeriamo la carne. Ma spiegami, tu sei melariano? No, io sono tendenzialmente melariano, però soprattutto come Macron. Sei fruttariano sostanzialmente. Come Macron. Ceracchini, però diciamo che non credo a tutte le cose che crede Ceracchini, perché vabbè, ma lascia bene, adesso è molto fantasioso. Sì, vabbè, ma Ceracchini, quello che abbiamo sentito ieri, per chi non lo sapesse, è un fruttariano che tende a diventare melariano. Per me sono follie allo stato puro, Cioè tu sei pazzo come Ceracchini, anche se non sei totalmente non pazzo. Uno che vuole mandare vuole mangiare solamente frutta ha il cervello che non funziona. Te lo dico, Andrea, hai il cervello che non funziona, però va bene. Il tuo, a me piacciono i pazzi, però, ma frutta, a me no? Come? Forse il tuo migliorerebbe con la frutta da provare, no? Come fai? Ma a non so, può darsi, ma io la mangio la frutta normalmente, ma non è che mangio. Ricordi il servizio delle Iene 2 anni fa? Dai, quel servizio in cui c'era quel ragazzo vegano che ha detto al padre malato di cancro: ah, prova a fare 2 mesi di succhi, e il padre è guarito. Ah, perché tu pensi veramente che uno possa guarire dal cancro mangiando delle cose? No, non tolleriamo queste cose. Col cibo? Ma possono esserci anche più di uno, no? Cioè, scusa, Andrea, tu credi alla chemioterapia oppure no? Ma diciamo che se dovesse capitare a me, io non... Non la faresti, non la eviterei assolutamente. Diciamo. Cioè, vuoi assolutamente guarire dal cancro con che cosa? Scusa, con delle essenze, con degli oli, con l'alimentazione, con l'aria fritta? Con che cosa? Con l'alimentazione, no? Con l'alimentazione. Cioè, tu arriva un tumore, arriva un tumore e tu non fai la chemioterapia. I dottori ti dicono: guardi, che bisogna fare la chemioterapia. E tu dici: no, guardi, siccome io sono fruttariano, tendente melariano, vorrei guarire con del succo di aloe, per esempio. Non lo so, con che cosa? Ma guarda, io in realtà sono odontoiatra pure dall'albo, quindi non è che sono un sei odontoiatra. A proposito, i melariani, i denti sono migliori degli altri o no? I denti assolutamente, nessun dentista o almeno pochi sanno che i denti dell'essere umano non sono selenodonti o sticodonti, cioè a forma di sega o a forma di semiluna come erbivori e carnivori, ma sono bunodonti a forma di collina. Ovviamente tu prova. Dunque noi non potremmo mangiare la carne, secondo te? Come? Beh, la carne non siamo adatti a mangiare la carne. Sai cosa succede col rigor mortis? Non l'irrigidimento della carne. Potresti mangiarla, secondo te? Se non la frollatura? Ma non lo so, io la mangio. Ma che cazzo quante me ne frega? L'hai mangiata in natura la carne per poterti. Ma perché la dovrei mangiare in natura la carne cruda? Perché sei la devo carnivoro, scusa. Ma perché l'ho mangiata anche con la costura la alteri o la peggiori? Prova a mangiarla come fanno gli animali in natura, non carnivori in natura, non è che hanno. Scusa, il sesso per un frutto, lasciamo perdere. Ti interessa sempre quello a te. No, ma adesso vado sul sesso, perché è interessante il sesso dei fruttariani. Cioè, Andrea è un fruttariano. Qualcuno mi segnala qui tramite alcuni messaggi. Io conosco questo Andrea, mi dicono che è italo-iraniano, è vero? Esatto. Italo, ma non c'è niente di strano, italiano. I servizi segreti della Zanzara sono più efficienti dell'M16. Nato in Italia. Scusa, Andrea, però io voglio dire una cosa. Cosa significa essere per te fruttariano? Spiegami sul serio, come la tua dieta quotidiana, in cosa consiste? Allora, mangio mele durante la giornata perché non vado a interferire con una fase catabolica naturale del corpo. Una fase catabolica naturale? Esattamente. Sì, la sera mangio altra frutta. Ma secondo te, catabolica. Ma anche per te, come per il signore di ieri sera, mangiare il riso, la pasta, uccidi dei semi, cioè delle vite umane, Scusate, qualcuno di noi in Italia è sensibile al tema degli animali? Sono pochissimi, figuriamoci. Ma pochissimi, sono in crescita, non ti preoccupare, sono in crescita. Cioè, giustamente, ma lascia perdere su cosa sono sensibili. Tu pensi davvero che mangiando la pasta o il riso si uccidono delle vite? La prego. Ma no, dai. E allora perché non la mangi? Per motivi, per motivi di salute? Di salute, ma certo. Cioè, ma mangiare la pasta fa male. Ma crea delle, diciamo, un rallentamento intestinale rispetto alla frutta, viene assorbita subito. Quindi perché devo rallentare il mio organismo? Bere il vino? Ma il vino, bah. Comunque preferisco sempre il succo d'uva. Voi avete visto che effetto fa l'alcol sul cervelletto? Che Cruciani, quando va a bere, ragioni ancora di meno. Sì, ma ho capito, ma che vuol dire? Ma quello io è due mesi che non bevo adesso. Ci volete togliere tutto, voi ci volete togliere tutto, no, l'Islam. No, ma voi di bere, siete un pericolo, ci volete togliere il vino, ci volete togliere la carne. Mica lo vuole imporre, mica lo vuole imporre, Andrea. È una mentalità pazzesca, ci volete togliere la pasta. Della regia. Scusa, ma voglio... non piace la figa alcalina, tra l'altro. Come la figa, alcalina? Come la figa alcalina, scusa. Certo, la figa alcalina, no? Cioè, che vuol dire la figa alcalina? Ma certo, dai, si sa. Dottore, credo che debba venire a mangiare, dottore. La figa acida, no? Di chi mangia carne. Dottore. No, aspetta, questa è molto interessante, però aspetta. Dottore, le ho detto che è pronto pelitivo. Filippino, chiama Parenzo. Signor Filippino, chiami Parenzo. Dottore, io mi sono flapposto perché ho capito che miserabile no. Fluttaliano provava a parlare. Dai, mi riferivo a un vecchio vostro intervistato che prendeva in giro Cruciani, diceva della discorsa figa. No, ma non ho capito, ma dottore, Andrea, non c'è. Aspetta, lascia perdere. Andrea, io voglio capire una cosa, cioè, che cosa significa questa cosa delle fighe alcaline? Cioè, la figa delle donne fruttariane ha un odore migliore? Ma è sempre lo stesso discorso della cacca, tutto migliora nel corpo, se non mettiamo cose. Cioè, aspetta, tu hai provato le due cose, no? Tal di tonno plonta. Hai provato le due cose. E vi posso confermare questo. Cioè? Diciamo le verità, tu che mangiano bene, hanno una figa molto più alcalina, molto più gustosa. Tal plonta, già fatta, plonta con più secchino. Per cortesia, collele subito, mangiale. Però scusa, Andrea. Siete forti, ragazzi. Tu hai leccato un sacco di fighe. Tal plonta, sì. Ho detto. Okay, sta zitta, allora. Chi è quel cinese che parla? Ma fallo stare zitto. È il maggiordomo di Parenzo. Rompe il cazzo ogni volta che si parla di sesso. Ma vedi che effetto fa la carne al cervello? Ma lo vedi? Quello è vero, però. Questo su questo non ti do. Su primavera pronto. E suggerisco a miserabile di prendere l'involtino primavera e metterselo dove non batte il sole. Questo suggerisce, dottore. No, faccio entrare cose nel mio corpo solo da sopra, non da sotto. Però scusami. Al contrario di Parenzo. Andrea, voglio capire una cosa. Allora, tu sei un gran leccatore di figa, mi pare di capire. Dottore, per cortesia, dottore. Sacale tutto, dottore. Fermatelo per cortesia. Adesso lo fermo. Allora, sei un gran leccatore di figa, sì o no? Sì. Sì, benissimo. Allora, hai provato, diciamo, sei esperto di cunnilingus. Cioè, abbiamo qui un Parenzo, cerchiamo di spiegare bene la situazione. Abbiamo un fruttariano. Dottore, Palenzo non c'è. D'accordo, va bene. Salmone, allora, o la plonta, allora, prima tal tal tonno. Si taccia un attimo. Salmone. Allora, qui abbiamo un fruttariano, tendente melariano, giusto Andrea, tendente melariano. Italo iraniano. Dunque abbiamo una serie di cose tutte insieme. Fruttariano, maiale vegano. Bene, normale come Parenzo. Allora, ripeto, fruttariano, tendente melariano. Sì, ripetilo la settima volta, dai. No, perché Parenzo mi rompe i coglioni. Il filippino di Parenzo mi rompe i coglioni. Italo iraniano, grande leccatore. Zitto, Filippino, abbiamo capito. Grande leccatore di figa. Ecco, va bene, benissimo. Così. Allora, avendo provato le due cose, cioè avendo leccato fighe sia di donne che mangiano carne, sia di donne che non lo mangiano. Quali sono le differenze? Fammi capire le differenze, allora, nel leccaggio della figa. I dentisti italiani consigliano le fighe alcaline. E soprattutto, ovviamente, come Già, perché pure dentista. Più, anche l'alito può stare più, ma è chiaro, se mangi tossine, se fumi sigarette, se mangi carne, l'alito fa schifo, c'avrà il resto. Ma chi te l'ha detto? Lascia perdere le sigarette sono una cosa, la carne è un'altra. Ma le sigarette non è come la carne, dai, su, come fai a dire una cazzata del genere? Oddio, l'OMS due anni fa ha detto che... Ma quella è un'altra storia, ma non è che l'alito... E la reparti dove fanno chemioterapia. Io conosco dei vegani che hanno una fiatella. Le reparti di oncologia danno la carne, nonostante è cancerosa, quindi sono dei geni, no? Ma che vuol dire? Nei reparti di oncologia danno la carne? Tu vorresti eliminare la carne dai reparti di oncologia? No, ma scherzi? Ma questo è matto, ragazzi. Davide, intervieni però. Filippino, dagli il telefono di nuovo. Mi sta scrivendo una famosa autrice televisiva di cui non posso rivelare il nome, che dice che la tartara di salmone comunque può ricordare. Vabbè, comunque. Vagamente la figa, sì, d'accordo. Dottole, allora Andrea, leccando le due cose tu noti un profumo diciamo diverso, non noti diciamo cattivi odori in fighe diciamo vegane, fruttariane, o no? Del dettaglio, scusa, ma è interessante questa cosa, è interessante da parte di persone che frequentano quell'ambiente. Sì, Parenzo, ora che smetti di frequentare donne che mangiano carne, però scusami Andrea, la cacca è veramente a pallini per i fruttariani, cioè esce fuori con delle palline, delle noci? La cacca a pallestini, ma non lo so, ma Tiro Ceracchini lui è esperto, io non mi occupo di cacca ma di figa. Sì, ma possiamo riprendere un attimo le file di questa dotta conversazione e dirvi ad esempio che Beppe Grillo oggi è intervenuto sulla legge elettorale. E cosa no? ha detto? E ha detto una cosa interessante. Ma la legge elettorale dei fruttariani qual è, Andrea? La legge elettorale dei fruttariani, cioè i fruttariani, chi votano i fruttariani italiani? I 5 Stelle probabilmente, i 5 Stelle, diciamo la verità. Beh, i 5 Stelle, ma comunque non è che ci abbiamo tanta... Allora ragazzi, i fruttariani... Esatto, beh sì, voteremo. Ma non mi pare che nessuno ha votato Monti, Letta, Renzi, cioè comunque... Quello è vero, però... quasi più una dittatura che una democrazia. Beh, adesso i fruttariani sono grillini, secondo me. Sono grillini, infatti, sono grillini. Allora, la realtà è questa, abbiamo parlato, grazie Andrea, con un fruttariano... fruttariani. Che io inviterei un'altra volta anche. Fruttariano, tendente melaniano, grande leccatore di figa, italo-iraniano, dentista... che sostiene che leccare una figa di una vegana barra fruttariana melaniana, ho capito, ma quello è il punto, è una cosa straordinaria, punto, ci conferma che la cacca puzza di meno, giusto ma Andrea? Che meraviglia, quante notizie me l'ha detto Parenzo, ma quante notizie abbiamo raccolto, ma la cacca oggi, puzza meno o no? È una conferma voglio avere dopo l'intervento ma ieri sera, che puzza di meno. Ma perché è ovvio, non è detto. Ma tu l'hai provato per dirlo che non funziona, te lo dico io come tanti altri fruttariani, ma non è che non puzza, profuma o la mangio. Ma ovviamente semplicemente puzza di meno, no? Perché non ci stanno proteine e putrefazione dovute ai prodotti animali, ma è chiaro. Comunque vi segnalo, e segnalo a questo fruttariano impegnato in altri fronti, diciamo, interessato ad altre cose. Ma devo staccarmi dal discorso di Rina, no? Per carità, tra una leccata e l'altra, diciamo, c'è il Napolitano che invece si scaglia contro il voto anticipato. E questa è veramente una notizia. Napolitano, che non mi stupisce, contro le elezioni anticipate. Sì, ma soprattutto contro le intese. A 4 che ma definisce... anche quelle sono cazzi nostri. È contro il Parlamento? Contro il Parlamento, no, Napolitano? È contro il Parlamento... il fatto che i quattro partiti principali siano messi d'accordo per far ma fuori chi la deve altri. Fare? Sta legge elettorale non si può. Ma non si può fare col 100% di consenso la legge elettorale. Andrebbe fatta, ma non è vero, non si può fare. Fatta così, ma no, non si può fare. Tutti. Ma che cazzo c'è? Giustamente c'entra, l'ex presidente emerito della Repubblica dice l'intesa a 4 è fatta per convenienza partitica. Ma no. Ma che cosa strana? Perché per quale motivo sono fatte le leggi elettorali? Ma non è una cosa normale. Ma sì, ma non siamo i buoni. Ma chi vince però, fa la legge elettorale? Ma sarà più interessante Andrea da Perugia, a parte che sono quattro diversi. Sarà più interessante il fruttariano melariano che la cacca non puzza e che lecca le fighe iraniane piuttosto di napoletana della legge elettorale? Io o no? Voglio napoletano. Ma non me ne frega niente, voglio sentire da Andrea da Perugia, che è un grande leccatore di figa, come sono le femmine, le donne iraniane? Come sono le femmine iraniane, Andrea? Beh, le femmine iraniane sono tra le più belle del pianeta. Ma sono porche? Iraniane? Ma dai, non mi far dire queste cose. Ma come no? Altrimenti che cazzo è termina. Non è che finora lei ha detto delle cose tanto più eleganti. Le femmine iraniane che hai conosciuto sono porche perché lì in Iran fanno tutta quella libertà, in Italia si divertono. D'accordo, in Italia va bene, ma in Iran sei mandato? Sì. Hai scopato in Iran? È un po' più difficile, no? Ah, è difficile perché ti tagliano l'uccello lì se te beccano qualcuno. Subito con misure drastiche. Amico mio. Però ci sono anche testimonianze discordanti. Grazie Andrea, grazie. Ciao. Grazie mille. Ciao, saluto la lobby gay che preferisce i cazzi fruttariani, come il nostro Parenzo. Come? Ciao. Non ho capito, la lobby gay preferisce i cazzi gay. Fruttariani. Ma che vuol dire? Parenzo. Perché la lobby gay preferisce i cazzi fruttariani? Perché non sono gay. Perché la lobby gay preferisce i cazzi fruttariani? È una diffamazione. Ma non è gay per me. Ciao, ciao, bello. Ciao, ciao, ciao. Certo, ciao, certo, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, caro, vai col paese. Dottore, dottore, dottore. Dottore, un cazzo. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato non... lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi. La zanzara. Ma è una roba pazzesca. Ehi tu. Sì sì, ce l'ho proprio con te. Te, testa di cazzo che stai ascoltando. Tu che chiami per dire non si può parlare male dell'Islam. Io vado in procura, ti denuncio, Cruciani. Tu stai facendo il gioco di quelli che si fanno esplodere, di quelli che seminano il terrore. Lo sai perché? Perché vogliono un paese come l'Arabia Saudita, dove non si può parlare dell'Islam, dove tutti devono essere unificati nel pensiero. Io non voglio vivere in un paese così, voglio vivere in un paese libero, dove se c'è un papa che dice una stronzata, devo poterlo dire. Dove se c'è un islamico di merda che si fa saltare in aria, lo voglio poter dire. Dove se Parenzo dice una stronzata, gli dico Parenzo sei una testa di cazzo. Se dice una cosa giusta, digli bravo Parenzo, c'hai ragione. Io voglio vivere in un paese libero. Voi che volete andare in procura, invece, volete un paese tutto uniformato. E allora, se non vi piace questa trasmissione, cambiate canale. Sì, va bene, vaffanculo. La zanzara. Allora io sento parlare quel deficiente lì che hai vicino, scusami il termine, quello è un deficiente e anche delle mie parti, perché io sono di Vicenza, lui è di Padova. Ma questo è aggressivo patologico, quello è aggressivo, tu sei un coglione, tu sei dato sotto un cavolo marzo, ma vaffanculo testa di cazzo che non hai né arte né parte, sei solo un chiacchierone e basta, hai capito mona? Caro Cruciani, sono con una ragazza polacca a cui ho insegnato soltanto una frase in italiano. E la frase è? Siamo al top totale. Allora, ti leggo una cosa, caro David, sì. Che ha come titolo I casini di Mussolini. I casini di Mussolini. Al tempo dell'Italietta fascista non c'era nessuna legge che vietasse l'uso dei bordelli. Non sto facendo l'elogio dell'Italia fascista, è ovvio, non interpretate male. Al tempo dell'Italietta fascista non c'era nessuna legge che vietasse l'uso dei bordelli, se non ai minorenni. I casini accoglievano i postulanti dalle 10 del mattino, chiudevano per il pranzo e la cena, per riprendere sino a mezzanotte a Milano e a l'una a Roma. Gli orari avevano la loro importanza perché i contadini e i vecchi erano di solito mattinieri, mentre i giovanotti, i professionisti, gli ufficiali dell'esercito e i preti preferivano il pomeriggio. I preti, in abiti del tutto borghesi, entravano nel casino da un ingresso di servizio per sostare in un'apposita saletta prima che la maîtresse e poi le signorine si occupassero di loro. Amico mio, che tempi, non quelli di Mussolini, quelli dei bordelli, Mussolini me ne sbatte, no? Tempi orrendi erano quelli, tempi orrendi. Beh, certo. Dove non c'era una sola parola, una parola molto semplice che si chiama democrazia e libertà. Detto questo, il cognome Rina, per riprendere un po' le fila del discorso, dopo l'intervento fruttariano, eccetera, eccetera, la parola Rina, il cognome Rina è un cognome che insomma suscita una certa un certo ribrezzo, diciamo. La gente se ne vergogna o no? Quelli che si chiamano Rina in Italia, la maggior parte ovviamente si trovano in Sicilia, se ne vergognano oppure no? C'è il solito nostro ufficiale comunale, funzionario comunale di vari paesi, sia un rompicazzo, lo so. Ma si innervosisce ogni volta. Ma perché volta, ti innervosisci? Che cazzo te ne frega te? Ha chiamato pure Parenzo, si ha chiamato anche la famiglia Parenzo una volta. Infatti, sì. Mi innervosisce proprio quello che fa. Ha interpellato diversi Rina, non a Corleone, in altri posti. A Corleone non ha il coraggio di andare, questo funzionario comunale. Franco. Buonasera, chiamo dal comune. Rina? Dal comune? Sì, sì, signora. Il suo cognome rientra tra quelli che possono generare degli imbarazzi e quindi la invitiamo a modificarlo. No, guardi, non ho tutto questo imbarazzo. Rina significa, è un sinonimo di mafia, ecco, e quindi... Guardi, lei casca male. Sinceramente non me ne frega niente e credo che lei sia un imbroglione. Pronto? Signora, darmi dell'imbroglione non è proprio la, una gran bella... Allora, non deve permettere a offendere le persone per il cognome, perché se no io faccio un'indagine e la denuncio. Ma sì, perché lei denunci pure... di telefonare a casa delle persone e dire il suo cognome imbarazzante. Perché? Perché come si permette? Ma signora, è una questione... Non si deve permettere, perché se continua a chiamare, io faccio un'indagine. Vabbè, lei faccia l'indagine. Non si permette di dire alle persone... Lei faccia tutte le indagini che vuole. Come si chiama lei? Io mi chiamo Russo, signora. Sì, sì. Non è il suo imbarazzante. Vabbè. Allora, perché mi associa a Totorrina? Io non ho niente a che fare con Totorrina. Ma non ne dubito. Non sono affari suoi. E non si deve permettere di dire che noi ci dobbiamo vergognare del nostro cognome, perché noi siamo noi, e Totorrina con la sua famiglia è un altro discorso. Non siamo né parenti e né niente. E poi, oltretutto, qui in paese, a parte noi, ce ne sono tanti altri Rina. In paesi vicini ce ne sono altri Rina. Ma lo sappiamo benissimo, signore. Perché non diamo agli altri? Ma certamente. Non abbiamo l'intenzione di fare nessuna causa, anche perché lei, penso e ripeto, è un imbroglione. Come si permette? Non si permette più a chiamare. No, come si permette lei a dirmi che sono un imbroglione? Genera imbarazzi il vostro cognome. La vergogna è lei, non quelli che si chiamano crimine, gente onesta. Pronto? Non a chiamare. Getta discredito sull'immagine. Imbroglione. Pronto? Lo sa, signora, che il suo cognome andrebbe modificato? Per quale motivo? Per esempio da Rina a Rana, oppure ci aggiunge una consonante. Dico, ma è a causa di Totorrina? Quella persona non dovrebbe essere nemmeno nominata. No, che si per adesso si sta facendo tanta pubblicità per far sapere che lui sta male. Ma che cosa ce ne frega se questa persona sta male? Non si dovrebbe dire, non si dovrebbe nominare. Dovrebbe essere tolta dalla faccia della terra. Come combattono i Rina, ragazzi? Come combattono? Non c'è nessuno che vuole cambiare cognome. C'è un funzionario del comune che non perde la calma con quella voce, non si arrabbia mai. Questo, gli possono dire qualunque cosa, ma lui ha sempre lo stesso tono della voce. Fabio da Udine, vai, Fabio. Nervoso mi dà. Fabio. Dimmi. Ascolta, almeno una cosa a Totorrina gliela dobbiamo riconoscere. Quando io ero piccolino, sì, io mi ricordo mio padre, che aveva mio padre come tanti altri. Tu sei siciliano di origine? Sì. Allora? Ho già chiamato altre volte. Mio padre, quando aveva difficoltà economiche e di lavoro, quando c'era tra virgolette il regime Totorrina, lavoravano i siciliani, cioè? E non gli extracomunitari. O che so, quelli del nord. Non ho capito, Fabio. Cioè, non ho capito, stai dicendo semplicemente che Rina dava posti di lavoro? Grazie, quello che si chiamava mafia, c'erano tanti posti di lavoro e si stava bene. E io tu stai parlando sul serio? Speriamo lei scherzi. No, io parlo, io ho fatto la guardia alla tomba di Borsellino. Sì, ho capito, Fabio, tu stai dicendo che quando c'era la mafia, a parte che la mafia c'è ancora, ma comunque quando regnava sovrana la mafia, c'erano più posti di lavoro, il lavoro andava agli italiani e ai siciliani, adesso ci sono meno posti di lavoro, a parte che non capisco la connessione. In Sicilia andava il posto di lavoro ai siciliani. Sì, ho capito, ma quindi, di che stai parlando? Io spero che lei stia usando il paradosso. Evidentemente tuo padre, tu sei stato tuo padre, forse anche tu siete stati piazzati da mafiosi, forse? No, completamente. Se dice così, non completamente. Quando in quei periodi lì i siciliani lavoravano e stavamo bene. Ma che vuol dire? Bene. Ma non è che dipende dalla mafia questo, ragazzi, e poi anche se stavi bene era uno status quo, mafioso. Dunque tu riconosci a Rina alla mafia qualcosa di positivo? Qualcosa di positivo, sì. A me dispiace tantissimo di Falcone, è normale che mi dispiace. Ma loro hanno sbagliato questo. Dispiace? Non dovevano fare la strage. Ma che se vuol non facevano ma la strage dice? Oggi avevamo una sorta di duce. Ma lei è un disturbato? Ma sei pazzo completamente. No, è completamente pazzo. Non dire queste cose. È completamente pazzo. Sicuramente è un disturbato. Questi qua diranno sbagliato a fare la strage, ma tutto il resto va bene. Ma lei è un disturbato mentale. No, tutto il resto va bene. Eh beh, sì, hai detto questo. Non hanno sbagliato a fare la strage. E dunque, sostanzialmente, il resto. Dica che è un disturbato, ci fa più bella figura. Cioè, Fabio, tu stai facendo l'apologia. Stai facendo l'apologia della Pax mafiosa sulla Sicilia. Si stava bene quando. Ma tu chiedi. Ma chi se ne frega? Ma non lo so, ma non mi interessa di chiedere agli altri siciliani. Va bene, si lavorava. Non venivano a prendere gli appalti, subappalti da fuori la Sicilia. Ma chi te l'ha detto? I siciliani dovevano lavorare. Ma e allora? Questo è il discorso. E allora che è? L'autarchia? Che c'è? L'autarchia mafiosa? Che c'è? La Sicilia e i siciliani? Ma è una cosa che non si può sentire. La Sicilia e i siciliani, bravissimo. Vabbè, ma a parte che tu stai a Udine, per cui già sei una contraddizione in termini, ma questo cosa vuol dire? Cioè, io sto a Udine perché da quando purtroppo è stato ammazzato Falcone, purtroppo da quando è stato ammazzato Falcone, allora? Mi piace. È stata tirata fuori troppa merda. Erano due le cose. Cioè, hanno ammazzato Falcone e tu sei andato via apposta. Ti hanno mandato via cioè, a causa della morte via. Di Falcone, tu sei andato via dalla Sicilia? Ascolta, io ti dico una cosa. Beh, ragazzi, tu sei la posso dire a Ingroia. Siamo in Groia e ci dici, Fabio, chi ti ha fatto la scorta? Aspetta un attimo, fermo. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la Zanzara. Per i borghi abbandonati propongo bellissimi bordelli a 5 stelle. Le pietre sulla Sant'Anchè, così l'Italia torna ad essere un paese serio. Direttore pazzesco! Ma secondo lei, per esempio, è normale? Qualche anno fa a Messina hanno proiettato con un proiettore delle minchie finte nella chiesa di Messina. Viva i frati! Viva i frati! A proposito di gay, di follie del Vaticano e della Chiesa Cattolica, caro Parenzo, perché non è che abbiamo smesso di parlarne, eh? Ogni tanto capitano sempre notizie succose da questo punto di vista. Per esempio, tu sai, anzi no, non lo sai, se non lo sai te lo dico, che in Friuli, un capo scout si è sposato con un uomo. Capo scout, no, dunque gay, si è sposato ovviamente con la legge che è stata appena approvata. Il parroco di quella cittadina, in provincia di Gorizia, si chiama Staranzano, lo ha invitato a dimettersi da capo scout. Perché è indecoroso questo? Perché è indecoroso, perché sono stati traditi, dice, i fondamenti del cristianesimo, che sono il matrimonio. Beh, sai, se erano scout cattolici è comprensibile anche. Cosa è comprensibile? Il capo scout non può essere frocio? Se afferiscono direttamente alla Chiesa Cattolica, evidentemente. No, lui dice che non può fare il capo scout, che è anche una specie di educatore. Perché... Mi pare assurdo, appunto. Mettiamoci nei panni di quelli che mandano i figli alla scuola cattolica. Tu mandi figli alla scuola cattolica. Non è che gli insegna la cultura frocia. Non vuoi studiare le cose della madrassa. A pigliarlo nel culo, no? Non è che adesso lei, professore, è sempre molto nei dettagli. Scusi, maestro, il capo scout non insegna i suoi. No, cioè non, a parte no. che insegnare però è un educatore, ecco, non è che appunto. Insegna a prenderlo però nel se culo tu mandi, scusami, adesso dai. Al di là di questa immagine anche che lei stasera ci propone, ci sforna. Ci sforna così bella fresca come immagine visiva, però ecco il punto è questo: se tu mandi i tuoi figli alla scuola cattolica non li mandi a studiare in una madrassa. Scuola cattolica negli scout è diverso, ma gli scout afferiscono non mi interessa se tu vai negli scout, a parte che scopano come dannati gli scout, e mi dice qualcuno che il sesso, per esempio a Teheran, è un grande argomento che potremmo affrontare prossimamente, affronteremo. Le iraniane dicono sono delle donne che fanno sesso in maniera pazzesca. Teheran si scopa assai. Così sostengono le persone che ci stanno chiamando. C'è ancora il signor Khamenei. Questo è interessante. Khamenei. No, non mi ricordo. Non mi ricordo come si chiama. L'assassino matricolato. Sì, lo seguivo anche su Twitter. L'assassino matricolato. Su Twitter lui c'è. Gli ho scritto che io avevo più followers di lui anche. Non mi ha risposto. Non credo che sia vero Khamenei. No, è lui. Vabbè, comunque ragazzi, questo prete deve smettere di rompere i coglioni. Un capo scout può essere frocio, non insegna la cultura frocesca e del pigliarlo in quel posto agli altri scout, può essere tranquillamente omosessuale e non rompete i coglioni con queste storie. Avanti, su. Allora, eravamo con Fabio da Udine, il quale ha detto delle follie inaudite, caro Parenzo. Ha detto che si stava meglio quando la mafia procurava del lavoro ai siciliani. No, io mi auguro che questo qua sia, sì, ecco, sia un fake. Ma che allora, fake? Questo me lo è vero. Auguro, dico, sì, è vero, sicuro, ma me lo auguro per lui anche. Non sono un fake, non sono un fake. Dimmi allora. Ascolta, quando io ti dico una cosa. Io non sono per la mafia, è una cosa logica, giusto? Beh, non però sei per la mafia, stai dicendo che con la mafia, la mafia dà lavoro ai siciliani? Ma di che parliamo, dai? La mafia, quando c'era da distribuire il lavoro, procurare lavoro, la mafia sceglieva i siciliani. Ma che vuol dire che sceglieva i siciliani? Ma non vuol dire un cazzo, male comunque. Lavorare i siciliani. Ma male, è una cosa negativa, ma chi cazzo l'ha detto? No, ma lavora chi è bravo, lavora chi è competente, non per quello quanto siciliano. Dell'Iran, mi scrive Robert Hannuna, mio amico. Persone competenti, si cercavano gente competente del territorio. Ma non c'è nessun merito mafioso da questo punto di vista. Guardi, la mafia non ha nessun merito, non ha alcun merito. No, non è vero. Lei fa l'apologia della mafia. È stato pure nella scorta di coso, lei dice di Ingroia, allora, dice lui e dice così, ma pensa quello che dove hanno sbagliato, invece di fare gli attentati, la stragi, potevano fare dei patti, patteggiamenti con lo Stato e utilizzare quei soldi, perché c'erano quei soldi, ma la criminalità ma questo non è che c'è solo ma scusami Fabio, ma non c'era solo, a parte che la sua figura, la tua figura è abbastanza ambigua, tu dici di essere stato nella scorta di in qualità di che, di poliziotto, in qualità di che? Io ho fatto i vesti, io ho fatto i vesti siciliani. Ma in qualità di che cosa? Io facevo la scorta militare, praticamente è militare. Militare, sei un militare? Era un militare. Eri un militare. Dunque ci stai dicendo che la trattativa con la mafia è una cosa da fare? Allora, è giusto trattare con la mafia, sì o no? Per il quale il suo assistito, cioè Ingroia, faceva il processo contro. Quindi, tanto vale che i soldi che si sono fatti, li prendevano e li usavano, li obbligavano in un certo senso a patteggiamento, a usarli per procurare lavoro, costruire, utilizzarli per la società. Ma tu sei completamente fuori di testa, Fabio. Totalmente fuori. Poi la mafia non è solamente stragi, la mafia è taglieggiamento, pizzo, ci sono tante cose, c'è una società medievale. Non pagavano nessuna tassa nazionale, pagavano solamente il pizzo. Oggi io lei sta facendo l'elogio di chi evadeva le tasse, non pagava un cazzo di tasse, pagava il pizzo. E come no? Sta dicendo che è una bella società quella là. Ammettiamo che il pizzo era una tassa, ok? No, ma ammettiamo, è una cosa illegale, punto, è un ricatto. Oggi ero uno Stato, non ascolto niente, ma lei va... Lei andrebbe veramente individuato e perseguito. L'elogio della mafia così gratis viene fatto. L'elogio della mafia. Beh sì, lo stai facendo, in sostanza lo stai facendo. Hai detto prima che ha fatto delle cose positive la mafia. L'hai detto prima tu, l'hai detto. Proteggeva dove ci... Proteggeva i lavoratori siciliani. Perché ma proteggeva un cazzo! Proteggeva un cazzo! Chi doveva e chi non doveva lavorare in Sicilia. E le sembra bello? Sì, certo che sembra bene, è giusto. Vediamo in Veneto, i veneti lavoravano i veneti, in Sardegna lavoravano i sardi, sì. In Sicilia lavoravano i siciliani. E poi andiamo tutti a fondo. Sì, a fondo. Ma se si continuava facendo dei patteggiamenti e facendo utilizzare quei soldi così. Che si sono fatti perché per la costruire del padrino, e procurare il lavoro... Sì. Perché cioè, che oggi c'era un altro duce. Parli pure. In questi loghi. A Corleone, parli. Con la musica del padrino. E sotto, a proposito dica. Di Corleone, i due figuri qui presenti hanno chiamato Irina di Corleone. Sì, anche questo è un po' pericoloso, però. Pronto? Casarina? Sì. Sì, buonasera. Ha saputo la notizia? Che cosa? Cioè che Irina potrebbe tornare libero. Io non lo conosco. Totò, dico. Totò. Sì. Non lo conosco io, non conosco nessuno. No, ma lei sa sono chi è, no? Anziana, vecchia, non lo so. Ma lei sa chi è, però? Boh. Ma lei non sa... Non è nessuno. Ma lei sa chi è Totò Riina, però, signora? Non lo conosco, non lo so. Non lo conosce personalmente, però sa che è stato il capo della mafia, no? Boh. Non lo sa. Come boh, il capo dei capi? Conosciamo solo il lavoro. Che voi lavorate e basta, dice. Non ci interessa, perché... Corleone grande, non è che Corleone... ho capito, grande Corleone, mica a New York, sono 16 ergastoli il signor Riina, però. Cioè, ma lei sa chi è o no, signor, signora, scusi? No, non lo so, non lo conosco. conosco, neanche lo voglio guardare. Cioè, ma lei che ne pensa della mafia, signora? Non mi interessa, ci ho detto. No, mi dispiace. Ma della mafia, lei che pensa la mafia? Fa schifo la mafia o no? Oh, io a me non è successo mai niente, né a me, né alla famiglia, nessuno. Vabbè, d'accordo. Noi tiriamo dritto e basta, non ci interessa. D'accordo, ma che giudizio dà dei mafiosi lei? Li ha conosciuti di mafiosi? No. Mai conosciuto nessun mafioso? No, perché niente. Sennò pure non so neanche leggere, a scuola ci vuole poco. Vabbè, ma che c'entra leggere o non leggere? Cioè, lei conosce la mafia o no? Sa cos'è la mafia o no? Io la guardo quando c'è la televisione e basta. Ma ora neanche la televisione, perché siamo in campagna e quindi questa la portiamo là e non vediamo più niente. No, no. Però questo Totò Rina potrebbe tornare libero. Ma non ti interessa. Non ti interessa. Lei porta lo stesso cognome di Rina? Eh beh, questo sicuro. No. E come no? Si chiama Rina pure lui? Si chiama Rina lei? Io, mio marito si chiama Rina. Eh beh, ho capito, vabbè, suo marito, lei, non è parente lei, no? No! È brutto chiamarsi Rina anche, o no? No, perché da noi. Ma lei è andata qualche volta fuori da Corleone, sì? Io no! Mai? Una volta in America. Una volta in America è andata? Sì. C'era una volta in America, come diceva come quello. Una volta comunque, perché... Si lavora nell'agricoltura, non si piglia mai niente. In America, Little Italy, no? Sì. Comunque, ma fa strano, però. Ognuno però ha diritto quello di andare a New York, secondo me. Adesso sì. Non è che per forza se si chiama Rina. Noi andiamo a tutte le parti. Sì, certo. Grazie a Dio non è mai successo una cosa. Ma lì a Corleone com'è la situazione? Tutto non è mai. Bellissima, se non vedi, succede mai niente. Noi siamo tutte felici. Non tutti succede felici. Mai niente a Corleone. Beh, insomma, giusto? Mai niente, insomma. Non succede mai niente a Corleone. C'è criminalità, gente che scippa per strada. No. Si può uscire. Corleone no. Beh, certo. È perfetta, non è vero. Corleone. Quello che mette nei giornalista non è vero. Non è vero. Non è vero. Fanno schifo. Chi fa schifo? Giornalista. Ma perché fa schifo giornalisti? Perché? Ma che hanno fatto? Non è vero quello che mettono sul giornale. Ma no, c'è la pace, si vive tranquilli, stiamo belli. Bene, state bene, non succede mai nulla. C'è qualcuno che controlla la situazione, però o no? C'è un controllo. Ma no? Che controllo? Ognuno si fa fatti suoi. Appunto, ognuno si fa fatti suoi. Ho capito, però. Arrivederci, signora Rina, arrivederci. Casa Rina, mi fa impazzire questa cosa, chiamare a casa delle persone Rina. Ma quanto ti come piace, cazzo? Dici, sì, no, ma signora Rina, sì, bellissimo. Ma come cazzo si fa a chiamarsi Rina? Vabbè, uno dice, io mi chiamassi Rina cambierei cognome immediatamente, scusa. Oggettivamente. Uno, quelli non gliene frega un cazzo perché stanno a Corleone, un posto assurdo, dai, ma Corleone, bellissimo Corleone. Corleone, ma di che parliamo? Dai, su, ragazzi. Cioè, un posto isolato dal mondo, certo, meno di quanto fosse magari 10 anni fa, 20 anni fa. Meravigliosa tutta, sì, d'accordo, ma Corleone Rina. Signora, pronto Casa Rina, mi fa impazzire sta cosa, Casa Rina. A me piace quando io però, pronto. Sì, però voglio parlare con un maschio una volta, perché non è possibile rispondono sempre femmine, rispondono sempre donne, anziane peraltro. Ci sarà un uomo, no? Ci sarà uno che risponde ogni tanto, cazzo. Ma chissà perché è andato in America una volta? Dove non è mai stato fuori da fuori una volta? Un crimine, sì, non so perché, America. Perché scusa, è andato in America? Sei, a Noia, a Nova a York. Nova York. Silvio da te, no, anzi, Marco da Firenze, vai Marco. Pronto? Vai, Silvio, aspetta. Allora, innanzitutto. Dimmi. Allora, un saluto a te e al super grande segaiolo che è accanto. Chi? Segaiolo Parenzo, segaiolo di Parenzo. Ci credo, ha degli buonasera. Occhi. Buonasera. Buonasera. Tipo, se ha degli occhi o segaiolo o altro, quindi meglio segaiolo. Buonasera, buonasera. Tutto allora, bene? Innanzitutto, Torina, mi sarei anche rotto un po' le palle. Sì. Volevo parlare di due cose. Spegni la radio, non ci rompere il cazzo allora. Di cosa voleva parlare? Volevo parlare di due cose. Una della mia esperienza ieri in barca, cioè? Stavo tornando da Olbia. Cioè? Sì. E oggettivamente Olbia-Livorno è una palla numero uno, o dalle ore 14 alle ore 9 e mezza è una palla incredibile. Sì. E allora mi sono detto, cosa facciamo? Che hai fatto? E mi sono messo fondamentalmente a comportarmi come la maggioranza rumorosa, che cioè? Le chiamo secondo me maggioranza cioè? Rumorosa, fondamentalmente a fare come cazzo mi pare e quindi di fatto come molti che intervengono via. Cioè, non ho capito, Marco, spiegami perché ci dovrebbe interessare. Niente, siamo qua tutto orecchi. Cioè, cosa hai fatto nelle 5 allora, ore passa? Giravo per la barca a scureggiare ovunque. Poi? Tra l'altro, io ho anche un po' di problemi. Ma questo sì, si capisce. Piace, insomma, ma non solo l'intestino, ha la testa che è uguale. Vabbè, scorreggiavi in cioè, barca. Cioè, parlava vabbè. Sostanzialmente. Cioè, stava parlando come fa ora. Parlava, che per lei è uguale. Poi? Esattamente. Parlava, ecco, benissimo. Quando, siccome ho bevuto anche un po' di Coca-Cola, ruttavo. Andavo giro, ruttavo. Poi? Vabbè, ma questo chi ho se ne frega? Poi? In bagno, volevo pisciare sul lavandino, ma ne va fiero lei. Ho pisciato in terra. Hai pisciato in terra, poi? Visto che ero con la mia ragazza, ho detto, perché non scopiamo anche? E quindi mi sono messo anche a scopare in bagno. Cioè, dove in bagno? Non hai scopato in libertà. Bagno. Cioè, ti sei fatto libertà, hai fatto cose normali, hai scorreggiato. Ha bevuto la Coca-Cola, ha ruttato e si è fatto una scopata con la fidanzata. Niente di eccezionale, ma niente di particolare, dai, su, non hai fatto nulla. Un'altra cosa volevo dire, una cosa molto però molto più interessante. Qual è la cosa più interessante? Dubito che lo possa essere. Fa un grande manifesto al Papa. Alla figura del Papa. Sì, però amico mio, io eviterei. Abbiamo fatto tardi. Io lo chiuderei qua, abbiamo fatto tardi. Ti assicuro che abbiamo fatto tardi. Silvio, mi dispiace. A demain, come direbbero i François, i francesi. Le Français, no, i François, le Français. Senza controllo sanitario. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ascoltami Parenzo, mi stai sulle palle. Sei anche un ebreo. Radio 24. Libera la voglia di fare.